Capitolo 18. La mattina dopo Mary naturalmente non si svegliò presto. Dormì sodo fino a tardi perché era stata una notte difficile e faticosa quella che aveva trascorso accanto a Colin. Marta le portò la colazione appena la vide sveglia e le disse che Colin era tranquillo, ma non stava bene e aveva qualche linea di febbre. Come sempre gli accadeva dopo una di quelle crisi che lo stremavano con quel gran piangere e urlare. Mary ascoltava attentamente mentre beveva il suo tè e mangiava i suoi panini con burro e miele. Ha detto che desidererebbe vederti al più presto e ha chiesto se per favore potevi andare da lui stamattina, disse Marta. È strano sentirgli usare questi modi gentili, ma si vede che tiene molto a te. Eppure stanotte gliele hai cantate belle, e chiare. Nessuno avrebbe avuto il coraggio di dire o fare quello che hai fatto tu. È stato sempre viziato da tutti. La mamma dice che ci sono due disgrazie che possono capitare ai bambini: non avere mai ciò che vogliono e averlo sempre, e non si sa quale sia la peggiore. Però stanotte anche tu non eri meno infuriata di lui, vero? Prima di tutto stamattina andrò giù a vedere Deacon, disse Mary invece di rispondere alla domanda. Poi parve pensarci: no, è meglio che prima vada da Colin e gli dica: ah, so io quello che devo dirgli. Gli occhi le brillarono a quell'idea improvvisa. Si vestì con berretto e giacca e così apparve sulla soglia della stanza di Colin. Lui osservò quel suo abbigliamento e capì che non si sarebbe fermata da lui. Sono contento che tu sia venuta, disse. La testa mi fa molto male, sono tutto indolenzito. Tu stai andando in qualche posto? Mary si avvicinò al letto. Colin aveva un viso pallidissimo e due enormi cerchi bluastri intorno agli occhi, ma l'espressione era abbastanza serena. Non starò via a lungo, spiegò Mary. Vado a vedere un attimo Deacon, poi torno. Sai, Colin, è per il giardino segreto. La faccia del ragazzino si illuminò e le guance si tinsero leggermente di rosa. Davvero? Sai, Mary, tu mi avevi parlato di una nebbia grigia e di un velo verde che andava ricoprendo tutto, e io stanotte ho sognato di stare in un luogo sconosciuto. Ma c'erano tutti intorno piccole foglie verdi che si muovevano leggermente alla brezza e c'erano tanti uccelli che facevano i nidi e c'era tanta pace intorno, tanta serenità. E così ho dormito tranquillo. Ora, mentre tu starai giù, penserò alle stesse cose. In 5 minuti Mary raggiunse Deacon nel loro giardino. C'erano anche la volpe e il corvo e questa volta anche due piccoli scoiattoli. Pensa, sono venuto a cavallo del pony stamattina, raccontò Deacon. È proprio bravo, saltino. Ho portato questi due scoiattoli nelle mie tasche. Uno si chiama Nocino, perché mangia sempre le noci, e l'altro Guscio, perché non si riesce mai ad afferrare le noci che il fratello mangia. Gli resta solo il guscio. A sentir dire Nocino, uno scoiattolo uscì da una tasca della giacca di Deacon e si arrampicò sulla sua spalla destra. E quando fu pronunciata la parola guscio, l'altro uscì dall'altra tasca e andò sulla spalla sinistra. Si sedettero tutti sotto un albero. Deacon aveva i due scoiattoli sulle spalle. Cap venne ad adagiarsi ai suoi piedi e Fuli si appollaiò su un ramo e si mise a sorvegliare tutti con grande dignità e importanza. Mary si sentiva così felice che per un momento pensò che avrebbe preferito restar lì tutta la mattinata anziché tornare da Colin. Le venne in mente di raccontare a Deacon tutto quello che era successo durante la notte. Man mano che parlava, l'espressione che si dipingeva sul volto del ragazzo le faceva capire che non poteva non mantenere la promessa fatta al cugino uscendo. Deacon sembrava essere molto più addolorato di lei riguardo a Colin. Quando Mary ebbe finito il suo racconto, Deacon rimase un po' in silenzio, poi guardò il cielo e gli alberi e respirò forte e disse: «Senti come cinguettano, come garriscono, come pigolano tutti questi uccellini. Vedi come intrecciano i loro voli, come si cercano, come si parlano. Loro sono proprio i messaggeri della primavera, la stagione in cui tutti si cercano, si chiamano, vogliono stare insieme perché il tempo è tornato bello, perché ci sono tante nuove foglie e piantine da guardare e perché tutti sono felici di sentirsi vivi. E pensa a quel povero ragazzo là, chiuso dentro, con solo una finestra e con i vetri chiusi per giunta, per vedere il mondo. E tutti quei pensieri tristi, senza nessuno che gli dica qualcosa per farglieli passare. Oh, deve venire qui, Mary. Dobbiamo trovare il modo di farlo uscire. Deve venire qui a vedere, ad ascoltare, a respirare quest'aria. a godersi i raggi del sole. Dobbiamo farlo senza perdere tempo. Sì, hai ragione, approvò Mary. Senti il mio piano. Colin ha imparato a conoscerti attraverso i miei racconti. Desidera vederti e con te vuol vedere anche Cap e Fuli. Ora, quando vado a casa, gli chiederò se puoi venire domani mattina con le tue bestioline. Poi, fra qualche giorno, quando farà più caldo e ci saranno più foglie e fiori nel giardino, lo convinceremo a uscire. Tu potrai spingere la sua carrozzella e sollevarla, se ce ne sarà bisogno, e così lo faremo entrare qui dentro e potrà godere anche lui di tutte queste belle cose. Mary aveva parlato in dialetto, cercando di imitare Deacon. C'era abbastanza riuscita, ma come tutti quando parlano un linguaggio diverso dal proprio non era perfetta e alcuni dei suoi errori avevano assai divertito Deacon, come succede anche a noi se sentiamo uno straniero dire crefatta invece di cravatta o crasie invece di grazie. Dovresti parlare in dialetto a Colin, rise Deacon, lo faresti ridere di sicuro e il riso fa buon sangue, si sa. Buona idea, comincerò subito, adesso appena lo vedrò, rise a sua volta Mary. Le dispiaceva lasciare quel paradiso terrestre, specialmente ora che Nocino e Guscio avevano cominciato a fare amicizia con lei e si azzardavano ad afferrare guardinghi un lembo del suo vestito per scappare poi a nascondersi dietro il tronco di un albero. Però non poteva mancare l'appuntamento con Colin e così, a malincuore, se ne andò. Quando giunse vicino al letto del cugino, lui cominciò ad annusare l'aria. «Che buon profumo porti con te!» esclamò. Sai, di fresco, di sole e di fiori. È il vento della brughiera, disse Mary. Sono stata per un bel po' seduta sotto un albero con Deacon, Cap, Fuli, Nocino e Guscio. È il sole di primavera che ha questo profumo. Si sente tutti intorno se si sta seduti all'aria aperta e si respira la brezza che viene dalle colline. Aveva parlato in dialetto, nel più puro yorkese, dialetto per capire come possa subito mettere di buon umore chi l'ascolta. Ma cosa ti prende? Disse lui ridendo. Non ti avevo mai sentita parlare così. È divertente. Un po' di yorkese fa sempre bene, replicò lei allegra e contenta di vederlo sorridere. Non sono ancora brava come Marta e Deacon, ma mi arrangio. Ma tu capisci cosa dico, vero? Per forza sei uno yorkese tu, nato e cresciuto nello Yorkshire. E non sai parlare il tuo dialetto? No? Oh, vergogna! Cominciarono a ridere, a pronunciare parole e frasi, a correggersi, a ridere di nuovo. Mrs. Medlock, che veniva nel corridoio, si fermò un attimo perché voleva ascoltare quelle risate prima di entrare. Mio Dio, se qualcuno me lo raccontasse non ci crederei. Colin non si stancava di sentir raccontare e raccontare di Deacon e delle sue bestiole. Mary gli disse anche che Deacon l'aveva condotta un po' fuori del parco per farle vedere Saltino. Glielo descrisse questo pony selvatico, con la criniera d'argento e le narici di velluto rosa, sempre frementi ad annusare le cose intorno a lui. Era molto magro, ma forte e robusto, come se i muscoli nelle sue gambe sottili fossero di acciaio. Appena aveva visto Deacon, aveva cominciato a scalpitare. Allora il ragazzo si era avvicinato al suo orecchio e gli aveva parlato. Come se avesse seguito tutto il discorso, aveva risposto agitando le orecchie, il collo e le zampe. Deacon aveva detto allora a Mary di accarezzargli il muso senza avere paura e il pony era rimasto tranquillo e beato a farsi accarezzare. Ma lui allora capisce quello che dice Deacon? Chiese Colin. Pare proprio di sì. Sai, io credo che il segreto stia nel fatto che Deacon è veramente e sinceramente amico di tutte quelle bestioline. Amico davvero. Oh, come vorrei anch'io essere amico di tutti. Disse infine Colin, dopo essere rimasto un po' a pensare, con gli occhi grigio agata fissi sulla parete. Ma non mi riesce, non ho avuto mai un amico, non mi piacciono gli altri, non li sopporto. E io allora? Oh sì, tu sì, anzi, è strano, credo che non solo ti sopporto bene, ma credo perfino che tu mi piaccia. Tu conosci Ben, il giardiniere? Lui mi ha detto che sono un po' come lui, che ho lo stesso brutto carattere. Penso che abbia ragione, ma anche tu gli somigli, secondo me. Cioè, siamo in tre ad avere lo stesso brutto carattere. Lui ha detto che né lui né io siamo una bellezza, e in quanto a questo anche tu. E che abbiamo l'aspetto di bisbetici e che lo siamo. Però Io devo dirti che mi accorgo di non essere più tanto bisbetica come i primi giorni che ero qui, quando ancora non conoscevo né Ben, né il Petirosso, né Deacon. Anche tu non sopportavi le persone prima? Proprio così? Sai, penso che se tu ed io ci fossimo incontrati prima che io conoscessi il Petirosso e Deacon, oh, credo che ti avrei semplicemente detestato. Colin le prese la mano. Mary, disse, vorrei non aver mai pronunciato quelle parole cattive contro Deacon. Ero arrabbiato e, beh, anch'io forse ho esagerato a chiamarlo Angelo. Sai, ha il naso all'insù, la bocca larga da un orecchio all'altro, i vestiti pieni di toppe e sa parlare solo il dialetto. Però, sai, se un angelo vero venisse a stare nello Yorkshire e vivesse nella brughiera, insomma, se fosse un angelo yorkese, credo che conoscerebbe le erbe e le piante, i segreti per farle crescere bene e i modi di parlare alle bestioline, né più né meno come dicono. E i due sarebbero amici, ne sono sicurissima. Sai, Mary, non mi darebbe fastidio, dicono, se venisse qui, anzi, vorrei proprio vederlo. Bene che l'hai detto, esclamò Mary, perché si fermò un attimo, sì. Quello era il momento di dirgli tutto. Connie la guardava con gli occhi pieni di curiosità, sentiva che qualcosa di molto importante stava per accadere. Perché? Perché cosa? Dimmi! Mary era così eccitata che si alzò dallo sgabello e gli afferrò tutte e due le mani. Posso fidarmi di te? Mi sono fidata di Deacon perché anche gli uccelli si fidano di lui, ma posso fidarmi di te? Oh sì, promise lui, serio. Bene. Deacon verrà qui a vederti domani mattina e porterà le sue bestiole con sé. Davvero? Esclamò Colin sorridendo felice. Ma non è tutto, continuò Mary, pallida per l'emozione di quanto stava per dire. Sai, Colin, c'è una porta che dà nel giardino segreto, l'ho trovata, è nel muro di cinta, nascosta dall'edera. Se fosse stato un ragazzino normale, Colin sarebbe saltato per aria, gridando «Hurra!» Ma era debole e con il sistema nervoso un po' a pezzi. Perciò, come reazione, cominciò a respirare affannosamente. Oh, Mary! Riuscì finalmente a dire fra un sospirone e l'altro. Potrò vederlo! Potrò entrarci! Vivrò abbastanza per poterlo vedere! Stringeva le mani della cugina fino a farle quasi male. Ma certo! Scattò Mary divincolandosi. Certo, non dire scemate! Certo che ci entrerai! Hai voglia? Ne avrai di tempo da vivere? Era così naturale e sincera la sua reazione, c'era tanta sicurezza nelle sue affermazioni che Colin si sentì rassicurato e cominciò a trovare un po' ridicole le sue paure. Per la prima volta cominciò a prendere in considerazione la possibilità di essersi sbagliato sul suo stato di salute. Mary si sedette di nuovo sullo sgabello e cominciò a descrivere il giardino come era realmente, non come immaginava che fosse, e Colin dimenticò la sua stanchezza e il suo malessere per animarsi tutto al racconto. Capitolo 19. Il dottor Craven arrivò al castello verso mezzogiorno. Veniva sempre chiamato il giorno dopo una notte di crisi e in verità erano visite che non gli piacevano per niente. Si trovava sempre di fronte un ragazzino pallido, spossato, disteso sul letto e senza alcuna voglia di alzarsi, maldisposto verso tutto e tutti, ancora così labile dal punto di vista dei nervi che bastava un non nulla per scatenare una nuova, violenta crisi a base di urla e pianti. Di solito queste visite del dottore duravano ore e richiedevano una pazienza infinita. Come sta? Chiese con aria seccata a Mrs. Medlock quando lei gli si fece incontro nell'ingresso. È stata violenta come quella dell'ultima volta? Finirà per farsi scoppiare una vena del collo se non la smetterà di urlare così. Bisogna riconoscere che è malato di nervi, indubbiamente, ma più va avanti con l'età, più sembra che ce la metta tutta per far più grandi i suoi malanni. Venga, dottore, venga a vederlo, non crederà ai suoi occhi. Si ricorda quella insignificante piccola strega che era con lui l'ultima volta che lei è venuto a visitarlo? Bene, quella ragazzina, forse perché è della sua stessa pasta, pestifera come lui, è riuscita a imporsi stanotte, a risolvere la crisi in modo non consueto. Dio sa come ha fatto. È un cosino da niente, quando parla si fa anche fatica a sentirla, di solito, ma stanotte è riuscita a fare quello che nessuno di noi avrebbe mai osato. È arrivata nella stanza di Colin, furiosa come una gatta arrabbiata. Ha battuto i piedi in terra, ha tirato fuori degli strilli incredibili. Gli ha ordinato di smettere di urlare. E insomma è riuscita a calmarlo. E ora, beh, venga a vedere lei stesso, dottore. Quando Mrs. Medlock aprì la porta della stanza, il dottore rimase interdetto sulla soglia. Colin era seduto sul divano, seduto, non sdraiato, e indossava la sua vestaglia di velluto. E accanto a lui c'era quella ragazzina che, per la verità, in quel momento nessuno avrebbe potuto definire insignificante, tanto il suo faccino era animato e pieno di allegria. I due ragazzi stavano guardando insieme le illustrazioni di un libro e ridevano e parlavano fra loro così intensamente che non si accorsero neppure che altra gente era entrata nella stanza. «Guarda questo com'è bello!» diceva Colin. «Il nome scientifico è Delphinium!» Ma è conosciuto come fior cappuccio o speranzina o speronella. Ridevano tutti e due leggendo questi nomi. Poi Colin continuava: Ne voglio un sacco di questi Delphinium, speranzina, speronella. Sono così belli azzurri. Mi piacciono i fiori azzurri. E a te? Ne metteremo un sacco, eh? Deacon mi parlava di uno con fiori viola, rosa e bianche che si chiama Consolida, perché serve anche per rimarginare le ferite, riuscì a dire Mary fra uno scoppio di risa e l'altro. A questo punto gli occhi di Colin incrociarono quelli del dottore e cadde un silenzio pesante. Ho saputo che non sei stato bene stanotte. Mi dispiace, tesoro, disse il medico con un certo nervosismo nella voce. Oh, ma adesso sto meglio, molto meglio, rispose Colin sfoderando la sua aria da rajah. Anzi, ho deciso di uscire domani o dopodomani, se sarà bel tempo. Voglio andare a respirare un po' di aria fresca. Il dottore si avvicinò al divano. Si sedette, tastò il polso al ragazzo. Devi stare molto attento, deve essere una bellissima giornata, proprio bellissima perché tu possa uscire. E sta attento a non stancarti troppo. Stare all'aria aperta non stanca, sentenziò il Raja. In quella stessa stanza, non molto tempo prima, c'erano state scene tremende perché il Raja si rifiutava anche di prendere in considerazione l'idea di uscire, dicendo che l'aria aperta gli avrebbe fatto prendere il raffreddore, l'avrebbe ucciso. Perciò era abbastanza naturale che il dottore fosse un po' perplesso. Mi pareva che non ti piacesse l'aria aperta, disse. Non mi piaceva quando ero solo, replicò il Raja, ma ora c'è mia cugina e lei verrà con me. E l'infermiera, naturalmente, suggerì il medico. No, non c'è nessun bisogno di lei, sentenziò Colin con un'aria così regale che Mary vide con la fantasia brillare diamanti e rubini e smeraldi sulle mani, sulla fronte e sulla vestaglia del cugino. Mary sa benissimo prendersi cura di me. Quando lei è qui sto sempre bene. È stata lei a farmi passare la crisi stanotte. C'è un ragazzo molto forte che verrà con noi per aiutarci con la mia carrozzella. Il viso del dottore assunse un'espressione preoccupata. Da una parte si rendeva conto che il nuovo atteggiamento di Colin poteva migliorare di molto lo stato di salute del ragazzo, e questo, anche se voleva dire un addio all'eredità di Misselthwaite, gli poteva anche far piacere. Ma da un'altra parte invece aveva paura di andare incontro a guai. Deve essere un ragazzo veramente forte, uno di cui ci si possa affidare, osservò. Prima di dare il mio consenso desidero conoscerlo. Chi è? Come si chiama? Deacon, rispose pronta Mary. A lei sembrava impossibile che qualcuno che sapeva cos'era la brughiera non sapesse chi era Deacon. E aveva ragione. A sentire quel nome il viso del dottore si spianò in un sorriso. Oh, se Deacon possiamo stare sicuri. È sano e forte come un puledro, Deacon. E ci si può fidare ciecamente di lui, rincarò Mary. È la persona più affidabile di tutto lo Yorkshire. Aveva parlato in dialetto, senza accorgersene. Te l'ha insegnato lui questo? Chiese il medico ridendo sotto i baffi. Sto imparando il dialetto come se fosse una lingua straniera, il francese, per esempio, rispose Mary un po' offesa. In India è così, tutte le persone intelligenti cercano di imparare la lingua che parla la gente del posto, dialetto o no. E a me piace parlare lo yorkese, e anche a Colin. Bene, bene, se vi diverte. Hai preso il tuo tranquillante stanotte, Colin? No. Prima perché non lo volevo e poi perché Mary mi ha calmato senza bisogno di pastiglie, mi ha fatto addormentare, parlandomi piano piano della primavera, dei giardini. Una nuova medicina, insomma, mormorò il medico sempre più perplesso, lanciando un'occhiata verso Mary che se ne stava seduta dritta, impettita sul suo panchetto, fissando i disegni del tappeto sul pavimento. Sì, Ora ti trovo abbastanza bene, però non dimenticarti. No, invece, voglio proprio dimenticarmi, lo interruppe Colin. Quando me ne sto qui, disteso da solo, e mi metto a ricordarmi quello che non devo fare, comincio a pensare a cose che mi terrorizzano. È per questo che urlo, per sfogarmi, per mandare via la mia paura. Non sopporto quelle cose che mi vengono in mente. Se riuscissi a sapere che esiste un medico che invece che ricordare continuamente al paziente che è malato, lo aiutasse a pensare che non lo è? Ecco, io lo vorrei qui, quel medico. Mary riesce a farmi dimenticare i miei guai. È per questo che sto bene con lei. Il dottore si alzò in piedi per congedarsi. Mai una visita post-crisi era stata così spicciativa, senza scene sgradevoli, senza nuove medicine da prescrivere. Mrs. Medlock lo accompagnò nel corridoio. Bene, dottore, cosa gliene pare? Sta cominciando una nuova era, disse il medico, e non si può negare che sia migliore della precedente. Sa, dottore, l'altro giorno parlavo con Susan Sowerby di Mary e lei ha detto: Ma sarà come dici tu, una bambina pestifera, un cosino insignificante, ma insomma, alla sua età, e siccome i bambini devono stare con i bambini, e non sempre e solo con i grandi, ecco che la sua compagnia può far del bene a Colin. È una donna in gamba, Susan Sowerby, affermò il dottore, e come brava nell'assistere i malati. Quando entrando in una casa trovo lei vicino all'infermo, sono certa che mi darà un buon aiuto per farlo guarire. Peccato che parli solo in dialetto. Se avesse studiato. Sa, una volta ero a casa sua e lei è stata costretta a sgridare i suoi figli perché avevano litigato fra loro per qualcosa e lei ha detto: Quando andavo a scuola mi hanno insegnato che la terra è fatta come un'arancia. E quando avevo 10 anni e avevo finito di studiare, mi sono resa conto che l'intera arancia non appartiene a nessuno. Ognuno ne ha a disposizione un pezzetto e a volte può anche sembrare che quel pezzetto sia troppo piccolo, ma nessuno di voi, mai nessuno, pensi che tutta l'arancia è sua, perché inevitabilmente dovrebbe poi accorgersi che ha sbagliato e questo sbaglio lo pagherebbe caro, con molti colpi di testa. Bisogna capire fin da bambini che non ha senso voler afferrare per sé tutta l'arancia, buccia compresa, altrimenti rischiate di restare con i soli semi in mano. E quelli sono così amari da mangiare? È una donna in gamba, Susan Sowerby, ripeté il dottore, e se ne andò.